Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Bentornati, siamo sempre su Liberi Dentro e Duradio, ora in onda su Radio Città Fujiko e su Teletricolore, canale 636. Io sono sempre Caterina Bombarda, la conduzione di questo programma, e con me ci sono Ignazio De Francesco da Torino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti. E Pietro Floridia dei Cantieri Meticci, sempre questa settimana come ospite speciale con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. L'apertura oggi, sempre con la cronaca bianca, riguarda il lavoro, tema molto sentito all'interno del carcere e non solo. Leggo l'articolo di Yolanda Barrera dal Corriere della Sera, la svolta dei lavoratori di pubblica utilità per 1.800 detenuti. E qui c'è la storia di Vincenzo Locascio, che è il responsabile dell'Ufficio Centrale Lavoro Detenuti al carcere di Re Bibbia, che racconta lui stesso delle storie di detenuti, per esempio Giuseppe, che però è un nome di fantasia, che ha avuto una vita difficile fin dall'inizio, cioè pensate, è stato ritrovato neonato in una scatola da scarpe, e poi racconta Locascio queste esistenze difficili, queste storie difficili di persone che dal marciapiede alla piccola criminalità poi purtroppo finiscono anche in carcere. Però questo Vincenzo Locascio è una persona che organizza attività di pubblica utilità per detenuti e è riuscito a inserire anche lavorativamente anche Giuseppe, che ha iniziato dopo mesi di colloqui e prove a impegnarsi nella pulizia delle aree verdi di Villa Panfili a Roma, e il risultato inaspettato, nessuno ci credeva neanche lui, è stato che alla fine è uscito dal carcere e ora fa questo lavoro, fa il giardiniere. E la cosa che ha colpito Giuseppe, questo detenuto, è il fatto, per esempio, il gesto di una vecchietta che si è affacciata dal balcone per offrire ai lavoratori del caffè, che è stata per lui una motivazione per avere anche il suo riscatto sociale, sostanzialmente. Però non c'è soltanto la storia di Giuseppe, c'è anche la storia di Giovanni, che era uno zingaro sul quale nessuno avrebbe mai scommesso niente, visto le recidive che aveva, e è entrato poi anche lui nelle attività di pubblica utilità grazie alla sua insistenza. Quindi di belle storie ce ne sono tante, il progetto ha inserito in questi anni circa 1.800 persone a lavorare, e la maggior parte, una volta uscita dal carcere, ha trovato un lavoro retribuito, perché hanno acquisito la consapevolezza che nella vita si può ritrovare un riscatto. Ma adesso do la parola a te, Ignazio, perché ci porti in Sudan. In Sudan. E continuiamo, insomma, con questa cosa, perché fa parte del lavoro. E poi parleremo più avanti anche di una cosa molto simile che si sta facendo in Marocco per i giovani imprenditori. Ma fa parte del lavoro anche la ricerca. Io penso che quando un lavoro è onesto, scaricare cassette al mercato piuttosto che fare delle chirurgie dei nervi, del cuore, un trapianto cardiaco, è la stessa cosa. È il contenuto del lavoro, l'onestà del lavoro che fa la dignità del lavoro. Quindi in questa stessa linea possiamo dare una bellissima notizia che viene riportata dall'Ahram, che è il famoso quotidiano egiziano, una notizia che arriva dal Sudan, che dice che Dua al-Amin ha vinto un grande premio dell'UNESCO per le ricercatrici nel campo della medicina e della chimica. Io ho qua davanti a me la fotografia, che è una bella ragazza col suo velo, i suoi occhiali, una faccia intelligente, una ragazza sudanese che ha studiato molto seriamente, è andata a lavorare al centro di ricerche di Cape Town e poi è stata insignita di questo premio importante per la ricerca, la scoperta di farmaci contro il cancro, soprattutto dell'esofago e di certi organi del corpo, su componenti che vengono dall'aglio. E quindi mi sembra anche molto bella questa cosa, no? Questo incrocio tra l'alta chimica, l'alta ingegneria farmaceutica e una cosa così semplice come l'aglio. Molti complimenti, Dua, e questo è anche un invito a tutte le ragazze musulmane a studiare, studiare seriamente. Quindi forse possiamo dedicare il prossimo brano, cosa dici? Dico di sì, abbiamo sempre Aisha, vero? Aisha Redouane, quindi un'altra grande signora marocchina, 62, quindi è già ormai la sua età, che canta in lingua berbera e canta in tanti, tanti formati, ma soprattutto va alla riscoperta delle radici della musica araba, e per questo ha avuto, si gode di una fama internazionale. Ci fa ascoltare Sabah Sabah, cioè la mattina della mattina. E rieccovi e bentornati sulle note sempre di Aisha Redouane, Sabah Sabah. E ora, Ignazio, continuiamo sempre con la nostra gelosia. Io ti faccio una domanda. Guerra alla gelosia, come? Allora, la guerra alla gelosia si fa, secondo il nostro Galateo arabo, con un primo passo, parlare dei propri problemi. Quindi dice così il testo, Tahaddus Masharik Ammasha Erika, Duna ilha illau alei wada yadrukuma yajalu kutasharu bil kalak, cioè prendere la persona con cui si ha un problema, si sente un problema, un nodo di gelosia, e provare a parlarne apertamente, senza, lui dice, senza ilha illaum, cioè senza buttargli addosso, tu hai fatto questo, perché hai parlato con l'altra persona, cosa hai fatto, no? Può essere che mi sbagli. Quindi questo è molto importante. Però il fatto di poter parlare, aprire il proprio cuore, è già un passo giusto, ecco, per combattere questo grande nemico della vita coniugale, ma anche della vita amicale. Si può essere anche molto gelosi tra amici, che è appunto la gelosia, el ghira. Grazie Ignazio. E adesso do sempre la parola a Pietro Floridia. E a partire dal titolo del nostro programma, che è Liberi Dentro Eduradio, che però è, noi consideriamo il carcere il quartiere della nostra città, perché è un quartiere dove è pieno di multiculture, insomma, il quartiere più ricco di popolazioni, 25 etnie diverse. E ti faccio questa domanda chiedendoti allora che cos'è il progetto Quartieri Teatrali, dove trasformate i luoghi della città in fucine di meticciato sociale, e se anche il carcere può essere una fucina. Sì, dunque Quartieri Teatrali si basa sull'idea che ogni luogo possa diventare un luogo di cultura, possa diventare un luogo in cui quindi coltivare se stessi, coltivare il proprio pensiero, le proprie emozioni, i propri sentimenti, le proprie anche parti di sé che nella vita quotidiana, nella vita ordinaria non si riescono a coltivare e a sviluppare. E quindi noi abbiamo costruito dei laboratori mobili, itineranti, in biblioteche, negli spazi pubblici, nei parchi, nelle piazze, nei cortili, e nell'idea che l'arte può essere un processo di costruzione di mondo comune, che il mondo comune non ci è dato, anzi, di questi tempi meno che mai, e invece bisogna tentare di costruirlo insieme e di farlo mescolando il lavoro di artigianato, mescolando la narrazione, dando valore ai propri vissuti, cercando di intravedere attraverso storie, attraverso metafore, quanto abbiamo in comune e quanto possiamo vivere qualcosa in comune, ma anche nelle variazioni, nelle declinazioni personali, appunto, non per forza uniformandoci, ma tenendo assieme le differenze. Noi appunto intendiamo i processi artistici in questo senso, quindi assolutamente anche il carcere può essere una grande fucina, proprio perché, come dire, i processi teatrali sono dei giochi nei quali si costruisce insieme e lo si fa mescolando il proprio desiderio, mescolando le proprie esperienze di vita, mescolando le nostre passioni, dare vita a un oggetto in comune, a una storia in comune, è un processo che può avvicinare molto, che può fare in qualche modo scoprire delle fratellanze con chi arriva da molto lontano. Molto bella questa cosa che dici, sì, anche questo che anche Ignazio, magari anche tu ci puoi dire qualcosa sul fatto di creare fratellanza quando si è concellini, vero? Certo, si vivono delle cose che noi non abbiamo neppure idea. Un ragazzo musulmano, un ragazzo magari ortodosso, romeno, oppure viene dalla Moldavia, che vivono insieme per mesi e per anni rispettandosi. Ma quando mai succede fuori? La stessa cosa, uno si alza di notte per fare la preghiera musulmana, l'altro ha la sua piccola icona della Madonna, dice le sue devozioni, fuori non si sfiorirebbero chi va alla chiesa ortodossa o alla chiesa cattolica, chi va alla moschea, e dentro ci sono, io credo che in questo momento noi parliamo sempre al carcere, dal carcere, ma anche alla città. Dobbiamo renderci conto che il carcere, come ha detto Pietro, è una fucina di intercultura e quindi c'è una grande produzione di idee, di convivenza che avviene proprio nella sofferenza e nella fatica della reclusione. E allora, proprio perché la nostra città cambia e deve cambiare anche in questo senso, di nuove fratellanze, lancerei Ron, una città per cantare. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Quante interurbane, per dire come stai. Raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai. Se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. A alle ragazze non chieder niente, perché niente ti posso dare. Se il tuo nome non è sui giornali, io si fa dimenticare. E rieccovi, bentornati su Liberi Dentro. Oggi siamo con un ospite, buongiorno, Davide Dionisi da Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Dico nostri perché ormai siamo diventati un'unica famiglia. Esatto, proprio così, perché tu, Davide, sei responsabile di Vatican News Service, Radio Vaticana, ed esperto di pastorale carceraria. E da un po' di annetti, poi ci racconterai, stai avviando questa trasmissione che si chiama I Cellanti, sempre di Radio Vaticana, che è un'esperienza un po' parallela alla nostra e si occupa sempre di carcere. Ma tu ti occupi, poi ne parlerò anche dopo, di carcere un po' a tutto tondo, perché fai tantissime cose anche sull'Osservatore Romano, hai queste ospedale da campo, storie dal carcere, poi c'è anche Il Vangelo Dentro, un'altra trasmissione. Quindi intanto partiamo dai Cellanti e ci racconti come nasce. I Cellanti è un'esperienza strana, perché era nel cassetto da tanti anni. Come emittente pontificia ci occupavamo ovviamente di pastorale carceraria, ma con Papa Francesco, che ha fatto irruzione, se così possiamo dire, nel mondo del carcere, la trasmissione dei Cellanti ha avuto, diciamo, un posto particolare, un posto speciale, no? E abbiamo deciso di avere un approccio proprio francescano nell'accezione del mio datore di lavoro nei confronti del tema carcere, perché abbiamo voluto accendere i riflettori solo ed esclusivamente sui circuiti virtuosi, cioè raccontare ciò che di buono avviene al di là del muro, proprio per capire, per andare a superare quello che è un pregiudizio diffuso, cioè nel momento in cui si pensa al carcere, si pensa agli ospiti, ecco, noi abbiamo anche modificato quella che è il vocabolario, no? Non carcerati, non detenuti, per noi sono ospiti di una casa di reclusione, di un istituto di pena. Noi non abbiamo davanti a noi il reato che hanno commesso, ma abbiamo una persona che può dirci qualcosa, una persona che vuole essere ascoltata, una persona che può dare il suo contributo anche a noi, perché noi nelle nostre esperienze, e ne abbiamo tantissimi da raccontare, ormai abbiamo superato, siamo quasi alla soglia delle 100 puntate, noi andiamo in onda ogni domenica dalle 16.30 alle 17, e quindi tantissime esperienze, e soprattutto in questo periodo tu ovviamente avrai sperimentato come collega questa cosa qui, nel periodo più duro del Covid, siamo riusciti veramente a raccontare un carcere completamente diverso. Raccontare storie di solidarietà, cioè quella solidarietà che non ti aspetti, raccontare episodi che hanno tra l'altro modificato quella che è la concezione, no? Così diffusa di un carcere che ripiegato su se stesso. Abbiamo parlato con le ragazze della Giudecca solo per raccontare loro che hanno messo insieme la bellezza di 110 euro, che per noi magari può essere una cifra importante, ma non importantissima per loro, invece per chi tantissimo, sì. È tantissimo per chi lavora, per chi sta in carcere, che hanno donato all'ospedale di Venezia per quale testimonianza di solidarietà nei confronti di chi stava patendo il Covid. Loro poi tra l'altro stavano, nel momento in cui stavano, in una situazione di tripla di detenzione: la prima per lo sconto di pena, la seconda ovviamente perché non potevano avere rapporti con l'esterno a causa dell'interruzione dei colloqui, la terza perché comunque sono mamme e figlie, e come tu mi insegni, il carcere non è fatto per le donne, anche dal punto di vista proprio strutturale, non è pensato per le donne, quindi questa tripla detenzione. Grazie per quello che dici, perché siamo ormai prossimi alla festa delle donne e quindi è anche un motivo per presentificare le donne in tutte le loro situazioni, anche quelle che non vediamo. Tra l'altro una di loro domani sarà protagonista nella nostra puntata e dalle parti vostre, tra l'altro, perché nell'istituto di Castelfranco le maestre sfogline andranno ad insegnare come si faranno i come si fanno i tortellini alle detenute. Quindi abbiamo un po' ai detenuti e alle detenute, quindi siamo proprio in tema, ecco. Davide, è il momento di lanciare un brano musicale. Io, come sempre, lo chiedo al mio ospite. Guarda, è sabato, c'è il sole, una bella giornata, buon tempo, good times, gli Chic. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro con ai nostri ospiti, come ci insegni tu Davide, e al nostro ospite da Roma, che sei tu. E stiamo parlando del programma I Cellanti, ma non è l'unica cosa che tu fai. Tu hai avviato anche questa trasmissione radiofonica Il Vangelo Dentro. E se ce ne vuoi parlare anche spiegandoci che cosa sia la pastorale carceraria. Il Vangelo Dentro è un'esperienza straordinaria, è stata un'esperienza sia dal punto di vista professionale, ma ancor più umana, perché hai un rapporto di convivenza quotidiana con gli ospiti della casa di reclusione. Che cosa succede? Tecnicamente è questo, non avviene una vera e propria intervista. Durante i tempi forti dell'anno liturgico, cioè durante il periodo dell'Avvento, durante il periodo della Quaresima, entro in carcere, costituisco una redazione e tutti i volontari che faranno parte di questa redazione saranno chiamati a leggere il Vangelo del giorno e avranno a loro disposizione 5 minuti, che è la striscia quotidiana che noi mandiamo poi in onda, per interpretare sostanzialmente quella che è la parola del giorno e raccontare e raccontarsi un po' quello che la parola dice e dice a loro, come li ha trasformati, come sono entrati in contatto con la parola. Le esperienze ne abbiamo fatte diverse, al momento siamo un po' fermi a causa del Covid, ma riprenderemo probabilmente quando le istituzioni ce ne daranno la possibilità. L'esperienza più bella probabilmente è stata quella maturata all'interno della casa di reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone, dove ci sono solo 70 detenuti, dove peraltro è stato anche Papa Francesco nella messa in cena Domini, ha lavato appunto i piedi a 12 di loro. Questo bellissimo carcere con la fortezza della famiglia Colonna, qui vivono solo ed esclusivamente ospiti collaboratori di giustizia. Quindi hanno raccontato attraverso i microfoni di Radio Vaticana la loro esperienza drammatica dal crimine alla 41 bis fino a uscire a scegliere la legge, la via della legge, scegliere la via della collaborazione, a volte anche a discapito, pagando un prezzo molto alto perché le famiglie non hanno seguito questi ragazzi. Molto spesso si sono ritrovati da soli perché la famiglia non ha riconosciuto questo gesto, questa virata improvvisa verso la legge, e inevitabilmente hanno scelto invece di avviare questo percorso che poi li porterà, come tutti sanno, a reinventarsi, ad avere una nuova identità, a vivere lontano dagli affetti, a vivere lontano dal posto dove loro appunto sono nati e cresciuti. Grazie Davide per questo racconto, per questo tuffo in tutte le cose che fai e che fate a questo punto, perché hai tanti ospiti anche tu con cui collabori e lavori. E adesso un brano lo lancio io, dedicato a te, la città da cui provieni, perché è un cantautore romano, Antonello Venditti, Ricordati di me. A presto sui grani. Grazie, grazie, contateci e buona giornata, e grazie per averci ospitato e averci dato la possibilità di raccontare e di raccontare in maniera diversa il carcere. Ricordati di me, questa sera che non hai da fare, e tutta la città è allagata da questo temporale, e non c'è sesso e non c'è amore, né tenerezza nel tuo cuore. Capita anche a te di pensare che al di là del mare vive una città dove gli uomini sanno già volare, e non c'è sesso senza amore. Nessun inganno, nessun dolore. Ed eccovi di nuovo qui, abbiamo appena ascoltato Davide Dionisi di Vatican News, che fa questo bel progetto anche lui, come noi, come Eduradio, I Cellanti, storie di carcere, e noi ci ridiamo appuntamento a oggi pomeriggio alle 17 con l'arte del giornalismo a cura del Poggeschi per il carcere, e vi ricordo sempre di scriverci liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Un saluto e a domani. We'll be right back.